In questa puntata di 2024 cerchiamo di rispondere a tante domande e a tanti dubbi che sono arrivati recentemente su uno dei temi più dibattuti nel mondo della tecnologia. Alcuni dicono un tema che va anche molto di moda, ovvero il cloud computing. E poi parleremo di una proposta arrivata da Asso Provider, che anima il dibattito in corso da tempo anche in Italia, sulla costruzione di una nuova rete in fibra ottica che sostituisca in futuro l'attuale network in rame, la famosa Next Generation Network, la rete di nuova generazione. Secondo questa proposta, i cittadini potrebbero acquistare in modo definitivo il cavo che collega l'appartamento al primo nodo gestito dalla società di telecomunicazioni che fornisce il collegamento ad internet. Si parla di una quota di 500 euro. Sul nostro sito internet abbiamo messo anche un sondaggio con la domanda: siete disposti o no a fare questo investimento? In cambio, i cittadini, i clienti che facessero questo investimento non pagherebbero più una parte del canone che oggi dobbiamo a Telecom o ai gestori alternativi. Quindi un canone ridotto, perché di fatto metteremo a disposizione questa infrastruttura alla società di telecomunicazioni e quindi parteciperemo agli investimenti che sono necessari per costruire questo network. In pochi anni l'investimento verrebbe recuperato, visto che il canone è ridotto, ma certo non è un progetto facile da attuare, perché bisogna che tutti i cittadini siano d'accordo, perché altrimenti alcuni pezzi di cavo dovrebbe pagare la società, altri verrebbero pagati dal cosiddetto azionariato popolare. Insomma, ne parliamo in questa puntata di 2024. Naturalmente, come sempre, le notizie principali della settimana. Vi invito a partecipare al nostro sondaggio, vi invito anche a partecipare al dibattito che c'è sulla nostra pagina Facebook. Potete collegarvi cercando 2024 su Facebook oppure cliccando sul link che trovate sulla nostra pagina internet. Vi ricordo, se state ascoltando questo messaggio, questa registrazione dopo il sabato alle 17, che la nostra puntata è disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Tutte le informazioni sono appunto sul nostro sito internet nella sezione podcast. Abbonatevi gratuitamente, questo è un modo molto interessante per riascoltare i nostri programmi. Da Enrico Pagliarini l'augurio di un buon ascolto.